Richiamate Acciughina, per favore. Richiamate Massimiliano dal Livorno. Richiamatelo, vi prego. Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Questa è una squadra che si allena nella maniera giusta, però poi in partita non riesce a tirar fuori tutto il potenziale di punti che avrebbe per questo episodio. Quindi speriamo che qualcuno mi aiuti, perché è un qualcosa che dobbiamo risolvere assolutamente. Speriamo che qualcuno mi aiuti, speriamo che qualcuno mi aiuti, speriamo che qualcuno mi aiuti, speriamo che qualcuno mi aiuti. Scusate un attimo, la Juventus sono 8 anni che vince tutto in Italia. Non so, adesso non ricordo, 8 scudetti e 3-4 Coppa Italia e un paio di Supercoppa. Ok, ma voi dite, mi dite, la Juve che cavolo gliene frega di vincere un altro scudetto? Ma i giocatori non stanno correndo, non gli importa niente del campionato italiano, stanno pensando alla Coppa. La Juve è abituata a prendere i grandi giocatori, ma non parlando con l'allenatore su ciò che gli occorre. Io non scommetterei neanche 10 centesimi sulla permanenza di Sarri l'anno prossimo alla Juve, perché qualcuno mi racconta il gruppo dei senatori vorrebbe il ritorno di Allegri. Vorrebbe il ritorno di Allegri. Il ritorno di Allegri è fantasia. La Juve non esonera l'allenatore in corso di stagione. È un fatto di DNA, è un fatto di stile. Rispettare questo DNA, anche se abbiamo fatto una scelta in contrapposizione quest'estate, chiamando appunto Sarri, perché è un allenatore non in linea con l'ambiente, è un allenatore non appartenente a noi. Deve tornare al Napoli. Deve tornare al Napoli. Beh, io sono molto curioso, in attesa di Pardo che sta arrivando qui in studio, di sentire, anche Claudia Schiattone e Gianmarco Ferronato lo sono, di sentire Nando Orsi come la pensa su questa, su questi umori popolari di colleghi, di ascoltatori. A proposito, WhatsApp vocali 349-238-6666 e dopo c'è il Bar Tour. Ciao Nando. Buongiorno, buongiorno a voi. Ma che è ultima la Juventus o noi prima? Non lo so. Non lo so. Aspetta che guardo la classifica. Guarda fuori, se la rivolti forse sì, ma a me sembra che non c'è qualificata in Champions League, non sa niente di Coppa Italia. Non lo so. Sai, ieri sera poi sono andati a cena Sarri e il presidente Agnelli. Mi dicono peraltro cena da tempo programmata e io ci credo senza problemi. Poi è cascata per ragioni di agende in questo momento che è il più caldo della stagione, anche se pure a me risulta che non siano né ultimi in classifica né fuori dall'Europa, però il tema c'è. Problema c'è, è un problema, no, ma più che altro è un problema che viene dal giorno dell'acquisizione di Sarri, dove tutti quanti, anche noi addetti ai lavori, ci aspettavamo chissà qua adesso la Juventus non avrà più rivali. Cioè, mi sembra quando noi dal Foggia prendemmo Zeman, adesso con questa squadra qua vinciamo sicuro a far passo, perché non è possibile vedere il Foggia che gioca in questo modo e la Lazio non vincere i campionati se gioca in quel modo col Foggia. Invece non è così, perché le realtà sono diverse, i giocatori sono diversi, la gestione è diversa e Sarri tra Chelsea e Juventus gioca in maniera assolutamente opposta di come possa giocare, di come ha giocato con Napoli, perché il Napoli è quello, sono 3 anni, è un episodio, sì, perché poi tra l'altro lui all'inizio giocava 4-3-1-2, non giocava neanche 4-3-3. Sì. Per arrivare a 91 punti l'ultimo anno con la Juventus ci ha messo 3 anni. È vero, non c'è un problema, ma è anche un problema. Allora, Sarri non fa il mercato. E non facendo il mercato. Dicono che la squadra non sia particolarmente adatta a lui. Tanto è arrivato Pierluigi Pardo. L'arrotino, coltelli, forbici, ombrelli. Anche la chiesa. Sì, anche attacca bene il telefonino, caricalo bene perché sei uno degli uomini più ricercati del pianeta. 7%. Buongiorno signor Fernando Orsi, buongiorno. Ciao Pierluigi. Come va? Sono pronto, Oh, finalmente. Beh, la stagione, stavate parlando della stagione di Nando che sarà condizionata da questo problemino muscolare, adesso è pronto. I problemi sono stati risolti. No, dicevamo invece di insomma, squadra non esattamente adatta alle sue idee, però no, io ti dico che a me ha sorpreso molto, l'ho detto un milione di volte, comunque il pragmatismo con cui Sarri si è approcciato alla Juventus, di grande intelligenza al di là degli ultimi rovesci, Nando. Assolutamente sì, ma tra l'altro lui in un'intervista ha detto: ma noi vedremo il Napoli, le sue idee di calcio, ma se io dovessi allenare per come penso, cioè se la Juventus dovesse allenare, cioè giocare per come la penso io, per com'è, allenerei me stesso, e non è così, certo. Io devo allenare una squadra che ha delle caratteristiche, quindi è quello, poi dopo non sta andando bene la gestione, l'Inter che la riprende, diciamo pure che no, più che altro vale che cominciano, finiscono, cioè guarda, siamo non è possibile pensare che la Juventus vince per 100 anni di seguito, capito? È l'esame della vita per Sarri questo, nel senso che è vero il fatto che questa squadra probabilmente non è quella che lui avrebbe sognato, no? Cioè che non è esattamente una squadra di ispirazione sarriana, però è una squadra molto forte. È vero che c'è stato qualche problema di mercato, lo sappiamo, la Juve a un certo punto aveva provato a fare un blitz per Lukaku, Dybala aveva rifiutato Manchester, quindi insomma è ovvio che non era esattamente, qualcosa non ha funzionato al 100% nel mercato, però detto questo è una grandissima squadra abituata a vincere e Sarri nei prossimi 4 mesi si gioca tutto. I prossimi 4 mesi in quelle 4 partite di Champions. Sì, Champions a questo punto anche in campionato, perché il campionato è la Juve lo dà quasi per scontato, poi è ovvio che se dovesse alzare la Champions potrebbe anche fregarsene un po' del campionato, ma questo lo sai eventualmente soltanto a fine maggio, inizio giugno, quindi no, io credo che, però io non ho certezze, ti dico la verità, è chiaro che gli ultimi exit poll non sono positivi, perché vediamo una squadra che è improvvisamente fragile, che ha perso la sua caratteristica più peculiare di questi anni, la sua forza più esclusiva, che era la concentrazione, sì, la ferocia. Ci siano anche diversi giocatori importanti non in un momento particolarmente brillante. Sì, però secondo me ancora più che questo, perché insomma il giocatore più importante di tutti è in una forma spaziale. Già questo insomma ti dice, no? Già questo è un bel vantaggio. Secondo me è proprio un fatto di testa, di grinta, di voglia, e qui Sarri deve costruire un nuovo patto con lo spogliatoio, secondo me. In un modo o nell'altro, o attraverso il convincimento, o attraverso l'autorità, o attraverso l'empatia, non lo so, però deve farlo, perché ma lo può fare, cioè, è ancora tutto possibile. Non è uomo da uso della frusta, esattamente come Ancelotti, a proposito molto gradevole l'intervista di oggi di Beppe Severgnini a Carlo Ancelotti, ha detto: il Milan è l'unico posto dove non mi hanno chiesto mai di usare la frusta, tutti gli altri dicevano usa la frusta, ma che ne sapete voi. Senti, invece Nando, a Roma, sponda Lazio, è la settimana più bella degli ultimi 20 anni, direi, no? Per Luigi Pardo la Lazio è la più solida delle tre lì davanti. Leggevo oggi Sconcerti, secondo Sconcerti è la più completa addirittura di quelle lì davanti. E per te, Nando? Diciamo che ognuna delle tre ha una sua peculiarità. La Juve ha Cristiano Ronaldo. L'Inter Ti potrei dire che la Lazio c'ha Immobile. Guardi sì, i numeri. No, però sai, Cristiano Ronaldo, giocatore più forte del mondo. L'Inter ha questo carattere, questa forza che praticamente gli ha conferito il suo allenatore, no? Cioè questo leone che gli ha messo dentro la testa e al cuore e che dà alla squadra una caratterizzazione. La Lazio non ha le coppe, sono 3 anni che gioca insieme e quindi in questo momento ha raggiunto una maturazione, una consapevolezza della propria forza incredibile, forse anche inconsapevolmente. Diciamo che la Lazio in questo momento è fra le tre quella che potrebbe essere la più tranquilla, perché la Champions League è a 14 punti la quinta, quindi l'obiettivo c'è, lo scudetto se lo può giocare, è uno sconto diretto. Io dico che in questo momento mentalmente è quella che sta meglio di tutte. Ed è certo, è la più leggera, no? Quella che ha la testa più leggera in questa corsa qui. È anche quella che, se guardiamo il trend degli ultimi 2 mesi, ha recuperato punti alle altre due, cioè poi le tendenze a volte cambiano, quindi io non è che ho la palla di vetro, però se dovessi dirti da che parte sta andando il vento sta andando lì, e non è che ci sta andando per una serie di situazioni contingenti, di botte, diciamo, di fortuna, ammesso che esista la fortuna del calcio nel lungo periodo, secondo me non esiste, può esistere nella partita secca, ma non nel lungo periodo, e quindi secondo me se la può giocare. Poi è ovvio che, no, qua è quella frase, quando il gioco è duro si fa duro, i duri cominciano a giocare, può darsi pure che insomma la Juve abbia così un po' sonnecchiato, perché comunque era davanti e che adesso cambierà passo. Io non lo so, però non è una meteora, ecco, ma questo lo diciamo da settimane, non è una meteora. Chi la vede giocare nella Lazio lo sa, è la squadra che attacca in maniera straordinaria ed è diventata pure solida, quindi sì. Punti deboli. L'Inter è un problemino in porta, si gioca anche sui dettagli, credo, certo, questa certo. Volata. Si parla di Viviano adesso, di Viviano. Riattivato, si sta allenando con la Samp, è svincolato senza contratto dopo l'esperienza della Spalla l'anno scorso, ma era di proprietà dello Sporting Lisbona, eccetera, eccetera, che lo ha liberato. È chiaro che il Padelli visto nel derby, dimmi Pier. No, e qui volevo chiederlo, ovviamente lo chiedo al portiere, no? Fernando Orsi. Inserire un portiere forse è più facile, no? Nel senso, è vero che negli ultimi anni nel calcio moderno il portiere è anche uno che guida la difesa, deve essere bravo coi piedi, cioè delle connessioni con il resto della squadra ci devono essere. Però forse di tutti i ruoli è quello dove serve di meno il rodaggio, l'intesa con i compagni, o no? Ma bisogna dire che tipo di intesa hai con i tuoi compagni. Se da un giorno all'altro tu arrivi e ti metti in porta, secondo me è la stessa cosa di un altro ruolo. È la stessa cosa, perché i compagni neanche li conosci. Ma non lo so Viviano quant'è che non si allenava, non quant'è che sta dentro una squadra. È indubbio che secondo me domenica Andanovic gioca, su questo non ci sono dubbi. Poi dopo per il resto non lo so. Viviano, Padelli domenica ha fatto male, ma ha fatto male, io li capisco Padelli, perché quando non giochi mai vieni catapultato dentro un derby così importante, l'emozione ci può essere nonostante la professione, no? Ma anzi, quindi il fatto che abbia fatto male, ma che l'Inter sia comunque riuscito a vincere la partita, potrebbe dargli una mano, no? Nel senso che pensa se avesse perso il derby, no? Assolutamente sì, vabbè, poverino, dai. No, quindi, appunto, sì, quindi sì, è un tutto sommato l'errore è un errore indolore che ti può dare a quel punto maggiore spinta, maggiore sicurezza. Facciamo un gioco. Vai. Allora, difese, i giocatori più rappresentativi delle rispettive difese, Bonucci, Acerbi, De Vrij, in questo momento Acerbi tutta la vita, anche secondo me più forte difensore del campionato italiano in questo momento. Italiano, Acerbi, sì, poi, sì, allora assoluto direi Bonucci, certo, però in questo momento Acerbi. Il punto di debolezza invece di queste tre difese secondo voi? Ragazzi, nella Juve il dibattito su De Ligt dura dall'inizio della stagione, fra alti e bassi. Questo è un prospetto importantissimo, abituato a giocare un calcio completamente diverso fino a pochi mesi fa, giovanissimo, con dei grandi piedi, però gli errori li fa. Anche secondo me il posizionamento sull'errore di Bentancur, il retropassaggio di Pjanic dell'altro giorno, non era ottimale. Poi ha fatto anche buone partite. Io penso sempre, comunque, adesso non voglio fare quelle cose da allenatore, che esista la fase difensiva, cioè ancora di più. Certo. Perché molto spesso i difensori si trovano a dover 10. Pagare gli errori, sicuro. O comunque il poco filtro di chi gli sta davanti. Anche un discorso di protezione può valere anche per la Juventus. La difesa subisce tanti venti contrari, però secondo me anche quelli che giocano davanti alla difesa benissimo non stanno. Quanto all'Inter, credo che sia abbastanza importante uno come Bastoni per caratteristiche di velocità. Quando giochi con De Vrij e Skriniar, se giochi con Godin come contro il Milan, abbiamo visto il primo tempo, ha sofferto. Quanto alla Lazio, Nando? La Lazio è diventata la miglior difesa del campionato. Sì, nonostante, dicono i numeri. Lo dicono i numeri. Nonostante non abbia una difesa titolare, no? Perché l'unico è Acerbi, l'altro è Radu, il terzo spesso lo cambia. Può essere Luis Felipe, può essere Patrick, può essere... forse guarda, stanno facendo bene, perché anche Patrick, che qui a Roma era veramente, invece ha preso un'autorità, forse è dato anche dai risultati. Quindi la debolezza sai che cosa può essere? Se sugli esterni non vanno a fare la copertura. Lazzari è uno che va tanto, Lulic non si sa neanche come sta, quindi forse dovrebbe giocare Gioni. Sì. Quindi ovvio che gli esterni potrebbero essere un lato debole della squadra. Però vedi, ci sono dei giocatori, pensa a Radu, no? Che non è esattamente, insomma, diciamo, il miglior difensore della storia del calcio, ma ha un rendimento che pazzesco. Cioè, uno come Radu alla fine, quindi io quando ti dico, secondo me sulla Lazio c'è stata sempre un po' di sottovalutazione, per quello che sta facendo negli ultimi mesi ovviamente va al di sopra di qualsiasi previsione. però in realtà è una squadra molto più solida di quello che già sembrava. Pjanic, Brozovic, Luis Alberto, chi ti pigli in questo momento, Piero? In questo momento prendo Luis Alberto tutta la vita. Pjanic, Pjanic è in difficoltà, è un giocatore fantastico, però è in un momento di difficoltà. C'era un dato numerico sulla partita dell'altro giorno, 44 palloni toccati, non vorrei dire commettere errori, però insomma è un terzo di quello che faceva all'inizio della stagione. Però ripeto, sulla Juve secondo me il punto è capire se scatta una scintilla, nel senso che fino a sabato sera alle 22:30 la Juve secondo me era in controllo, secondo me si sentiva abbastanza in controllo della situazione. Sì. Adesso no, quindi adesso può darsi che ci sia la sveglia, ecco. Io per la ragione di cui sopra, cioè fase difensiva, credo che la Juventus patisca tantissimo l'assenza di Khedira. Nando? No, secondo me la Juve si spadisce tanto l'assenza degli Ellini, quello è importante, è fondamentale. No, ma anche io con Luis Alberto mi sembra proprio, lo sai che mi sembra un giocatore anni 70. A me sembra un fenomeno, visto cioè, in questo... quei giocatori meravigliosi anni 70, i Bulgarelli, De Sisi, che non so se la gente li conosce, sono quei giocatori, i numeri 10 che non esistono più, ma che però tecnicamente sono meravigliosi. A me impressiona il fatto che non guardi mai la palla. Ma no, ma guarda che è una cosa incredibile, fai in un look i colpi di tacco, come si faceva ai tempi negli anni 70, quando questi giocatori erano marcati un po' meno e quindi potevano espletare le loro qualità in maniera meravigliosa, però poi dopo, quando venivano marcati, facevano la stessa cosa. Ecco, mi sembra un giocatore così e devo dire che... Ma ricordate ragazzi che Luis Alberto la Lazio l'ha preso come esterno che giocava a Liverpool, esterno. È il centrocampo più forte del campionato, quello della Lazio? In questo momento sì. Adesso aspettiamo anche Eriksen, perché Eriksen è tanta roba, quindi Conte secondo deve me deve cambiare facendo un po' il vestito, Conte. Sì, ma sono bei problemi, insomma, poi l'ha voluto lui. A me sembra un giocatore di un'altra categoria, per come si, cioè, lui ha due strade, no? Conte ha due strade. Ha la strada di non cambiare il vestito e di inserire Eriksen a centrocampo e far ruotare. Beh, con Brozovic uno fra Sensi e Barella. E lo può fare Eriksen, ha tante caratteristiche diverse. Fa bene, secondo me, Conte a preservarlo, quindi a non caricarlo di responsabilità e a centellinarne l'ingresso. L'altro giorno ha fatto bene, al di là della punizione, insomma, è entrato come entrano, guarda, i grandi giocatori, vedi, quasi no? dal body language, no? Certo. Ti sembra uno diverso, no, dagli altri, onestamente, per come tocca la palla, per come si muove. Sono solo suggestioni per il momento, ma insomma lo conosciamo abbastanza dall'Ajax al Tottenham. Il centrocampo della Lazio ha un punto debole, Nando? Guarda, il centrocampo della Lazio è stata una grande intuizione di Inzaghi, che ha portato i due trequartisti a fare i due centrocampisti, a spostare 10 metri più indietro. E adesso in questo momento no, perché abbinano qualità, perché Lucas Leiva è il ministro, è quello che li guida, no? Con altro giocatore pazzesco, che però non è che arrivi esattamente dal campionato equadoregno, è uno che arriva da Liverpool. Esatto. No, però no, vorrei dire che stiamo parlando di centrocampo dell'Inter, della Juventus e della Lazio, meravigliosi, sono straordinari. Quindi non è che c'è una differenza abissale. In questo momento, però, il centrocampo della Lazio è quello più forse complementare, quello che gioca meglio, perché c'è qualità fisica, c'è interdizione, c'è grande qualità. Quanto all'attacco, ovviamente è una domanda che ci facciamo da molto tempo. Come peso specifico, credo che Immobile sia il più importante dei tre, addirittura più di Ronaldo. Sì, Lukaku è fondamentale nell'Inter. Il capocannoniere del campionato. Penso che Cristiano Ronaldo invece di aver fatto 10 gol nelle ultime 10 partite, o quante ne ha fatte, ne avesse fatte 6. La Juventus quanti punti avrebbe avuto in meno? Ma infatti, secondo me, momento Cristiano Ronaldo secondo me è quello che sta meglio dei però tre, sta meglio pure nella Lukaku. Però dici nella Juventus eventualmente, non è ovvio la stessa cosa, non c'è Cristiano Ronaldo, ci sono quegli altri due che malissimo non stanno giocando in questa stagione. No, però no. Secondo me il problema in questo momento della Juve è un po' quello, cioè i problemi principali sono due: troppi gol subiti. E premesso poi che il calcio non è mai compartimenti stagno, quindi poi alla fine le cose sono tutte interconnesse, però problema di concentrazione, situazioni difensive, e secondo me non ha trovato una quadra lì davanti, a parte Cristiano Ronaldo, perché Higuain si sacrifica molto per la squadra, però raramente riesce a rendersi pericoloso. Dybala è da un po' che non segna, ultimamente gioca un po' meno. Douglas Costa, lo sappiamo, è il più sarviano di tutti, però è fragile. Sei d'accordo, Pierluigi, con chi dice che Sarri deve in questo momento battezzarne 11? Bravo, stavo dicendo la stessa cosa. Io stavo dicendo la stessa cosa. Sei d'accordo con questi, con chi sostiene questo, Nando? Secondo me sì, sì. Secondo me è l'ora delle scelte. È l'ora delle scelte perché, perché sì, perché poi Sarri è il maestro delle scelte definitive. A Napoli ci aveva abituato così, a Torino è un altro modo di gestire. Secondo me, però, se qualcuno gli deve dire male, cioè se qualcuno gli deve dire che lo sta facendo bene, glielo dicesse con il suo modo di fare. Perché secondo me, io non lo so. Io sono più dell'idea di Pierluigi. Insomma, no, io faccio notare che per la seconda volta le valutazioni sono fondamentali. Sì, no, per la seconda volta in campionato la Juve ha riproposto la squadra della formazione precedente. È successo a gennaio con Cagliari e Roma, ed è successo adesso con Fiorentina e Verona. Quindi diciamo che questo ragionamento Sarri lo sta facendo, però non è che i risultati stiano migliorando. Secondo me non è tanto questo il tema, che sia più che il momento delle scelte, secondo me è il momento del chiarimento finale dello spogliatoio, ma non perché ci siano chissà quali problemi, perché quando Sarri a fine partita, con candore assoluto, sincerità che è anche apprezzabile, dice: sono settimane che parliamo, non riusciamo ad allenare la concentrazione, spero che i leader mi diano una mano, insomma, dice delle cose molto chiare, molto precise, e ripeto, ne apprezzo la sincerità, che voglio dire, questo mondo è merce rara, quindi però ci fa anche capire che c'è qualcosa che non, quando una partita, quello che tutti i tifosi della Juve, il 90% dei tifosi della Juve pensano, è che magari non è detto che la Juve di Allegri sarebbe passata in vantaggio col Verona, ma in quella situazione lì quella partita non la perdeva. Poi magari sì, non è così, vero, magari non è così, però questo è il percepito. Quindi che non ci sia la cattiveria, la garra che c'era qualche mese fa, questo mi pare abbastanza oggettivo. Sì, è verissimo, condivido totalmente quanto ha detto Pierluigi. Nando, tu? Sì, sì. Ma vabbè, la domanda è quella, l'abbiamo sentito, la domanda l'ha fatta lui, Sarri dice: certo. Spero che mi diano una mano, adesso vediamo se gli danno una mano nelle prossime 2-3 partite, vediamo se quell'appello è stato raccolto oppure c'è qualcosa che davvero non funziona in assoluto. Invece quanto all'Inter, per chiudere questo tour, credo che il fatto di aver vinto, allora, non hai Lukaku che è stato il miglior giocatore fin qui dell'Inter, credo che discussioni ce ne siano poche. Lukaku squalificato 2 partite e fai 2 vittorie. Lautaro squalificato 2 partite e fai 2 vittorie. Questo secondo me è un eccellente segnale. Sì, è un grande segnale perché vuol dire che sì, però sono 2 partite venute fuori col carattere, perché anche contro Udinese non è che ha fatto una grandissima partita all'Inter, però poi dopo te la risolve Lukaku. E col Milan c'è stato questo gol di Brozovic, quell'episodio che poi ha scatenato l'Inter e ha appiattito il Milan incredibilmente poi. Però l'Inter è questa, cioè l'Inter non è mai doma, non è mai morta, e quindi e questa è la caratteristica principale, al di là delle tattiche, delle cose. E quindi secondo me domenica è veramente una bella partita, tattica contro qualità tattiche di gruppo contro una forza agonistica che è incredibile. Grazie Nando. Ciao. Ciao ragazzi. Ciao. Prima di fermarci per la borsa, volevo farvi sentire una cosa e farcela raccontare da Pierluigi Pardo. Abbiamo il VAR di Sanremo, Cesari lo commenterà, l'episodio Morgan Bugo. Circa 1:30 di notte, insomma, la serata di venerdì del Festival di Sanremo. Allora, Morgan e Bugo sono 2 cantanti solisti, però sono 2 cantanti solisti, no? 2 cantanti solisti, vai, che succede? Che però si esibiscono in coppia, quindi sono 2 compagni. Morgan decide di cambiare alcune parole, alza le mani, Bugo dice: ma cosa stai facendo? Il linguaggio di Morgan può essere considerato ingiurioso da cartellino rosso? Sì. Assolutamente sì, ingiurioso nei confronti di Bugo, perché si era preparato per quel tipo di canzone. E allora poverino cosa fa? Stizzito, abbandona il palco, scende negli spogliatoi, squalificati tutti e 2. Il VAR applicato alla vita. Ma chi è venuta l'idea? A me. Sinceramente a me. Sei no, vabbè, sì, beh, lui è fantastico. Anche perché gli ho detto: guarda, poi ti chiedo una cosa di Bugo e Morgan. e lui fa e allora lì mi sono interrogato su se prepararlo, se dirgli guarda prepararsi o non prepararlo. Insomma aveva un po' seguito, devo dire che insomma episodio da VAR, fra l'altro. Ma secondo te era ad agosto? Per me era ad agosto, però sinceramente insomma è stato un ennesimo elemento che ha ravvivato il festival e che secondo me insomma comunque ha dato anche non so dirti dal punto di vista dell'immagine, ma sicuramente dal punto di vista della visibilità ha dato tantissimo a tutti e due. Allora, no? Allora facciamo così: sosta per la borsa e poi ovviamente parlare del festival di San Beh, chiaro, è chiaro. A vincere. Mi fanno sorridere i tifosi juventini perché adesso rimpiangono Allegri. Quando venne la Juve sembrava che fosse il diavolo. Tutti convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati. A proposito di Sanremo, io non l'avevo mai più visto. Ieri l'ho visto solo perché avevo capito che c'era Bartoletti. L'avevate detto voi, però non l'ho visto. E non è che canta? Ah, pensavo che dovesse cantare con la Lamborghini. Avevate detto che faceva il duetto. Sono degli imbroglioni. Ma perché lei crede ancora a Turini e Bartoletti? Dell'alba, girare. So che il direttore artistico avrebbe voluto la canzone vincitrice del Festival di Sanremo in questa apertura di Bar Tour, ma abbiamo deciso di fargli una sorpresa. Se non è piaciuta, la colpa è di Pardo. Altrimenti il merito è mio. Ciao ragazzi, Leo Turini, Mario Bartoletti, buongiorno. Se dovessimo spiegare in pochissime parole il complesso meccanismo che governa l'armonia del nostro amore. Se dovessimo spiegare con pochissime parole. Perché basta, tutte le canzoni possono essere cucinizzate. Diventa improvvisamente qualsiasi testo diventa un testo di lotta e rivoluzione. Dammi tre parole, sole, cuore, amore. Cioè, già diverso, capito? Sai cosa canta lo scontroso maestrone davanti al suo caminetto? Lui che dice che non ama Sanremo, che va soltanto al premio Tenco. Per gli amici canta: vola colomba bianca, certo, vola, diglielo tu che tornerò. Peccato che ci sono poche R in vola colomba. Okay. Sì, io non so cosa canti il maestrone quando vede giocare la Juventus di Sarri, ma è questo un po' nervoso. È un po' nervoso, mentre Leo Turrini gongola come un bambino perché è stato il vero trionfatore della settimana sulla Pero Gormano. Chiedetemi perché. Perché sei lì da quando hai vinto il derby, non ti sei più mosso. No, è successo una cosa incredibile. Morgan ha riconosciuto la macchina di Bugo, tamponato. Allora ci siamo tutti ritrovati in fila ed è arrivato un carro attrezzi da Milano. E chi guidava questo carro? Morgan gli ha rotto il telefono in testa, secondo me. Cosa ne pensi, Marino, della ricostruzione al VAR che ieri sera Pardo e Cesare hanno proposto di Morgan e Google? Guarda, era l'unica cosa che mi mancava di Sanremo, sarebbe stata perfetta nel grande puzzle di Sanremo. E io penso seriamente che, visto che Cesare abita non lontanissimo da lì, che il prossimo anno potrebbero prenderlo seriamente in considerazione per sostituire Fiorello. Bello, straordinario. Graziano è veramente straordinario. Ecco qua. Però adesso c'è anche una persona che mi scrive: il VAR applicato alla vita, adesso ci penso, mi devo ricordare, anzi lo dico a Piantanide Boni, se mi stanno ascoltando. Sì. Il VAR applicato alla vita, secondo me Graziano Cesari che commenta le varie situazioni col VAR. Presentato dalle parole di D'Aversa dopo Parma-Lazio, che con D'Aversa che dice: è inutile che viene a far simpatico nell'intervallo, è inutile che viene a far simpatico. Ma eravamo rimasti a Leo Turrini che ci doveva dire da chi era guidato il carro attrezzi. Allora è arrivato il carro attrezzi perché Morgan ha tamponato Bugo. Sì, questo sì. Il carro attrezzi era guidato da Lukaku. E allora dall'ingorgo è sbucato Achille Lauro e gli ha detto: Romelu, sarò la tua Dori Ghezzi. E voleva baciarlo come se fossero Wes e Dori Ghezzi. Insomma, qui è un casino indescrivibile tra il Festival di Sanremo, il derby. Voglio anche dire una cosa: tra poco si alzerà il sipario sulla nuova Ferrari. Sì, lo so. Ma infatti ti interrogo per questo. Mille e non più mille, e verrà suonato l'inno di Mameli perché siamo nella città del tricolore, Reggio Emilia, ma soprattutto verrà suonato anche il nuovo inno della Ferrari. Voi chiedetevi qual è il nuovo inno della Ferrari. Qual è il nuovo inno della Ferrari? Ma perché c'è un nuovo inno? Allora, c'è un inno. Il nuovo inno della Ferrari è un pezzo memorabile di Barbara Streisand e Donna Summer. Enough is enough. Abbastanza è abbastanza. Quando è troppo è troppo. La Mercedes ci ha stufato. E il pezzo continua dicendo no more tears, non più lacrime. Non vogliamo più piangere noi ferraristi, e voglio dirvi una cosa. Sì, però se di a quelli cosa. Della Ferrari, di ai tuoi amici che ci vogliono soffiare il direttore artistico, hanno sbagliato buco, Ah, sicuro, no, anche perché il vero inno della Ferrari ha vinto a Sanremo e si chiama Fai rumore. Tanto vero. Quando Marino Bartoletti insieme a me fece quel duetto memorabile al Festival del 1965, un'intonazione perfetta era Se piangi se ridi. Oh sì, assieme ai Missiles. Solo, dato che abbiamo parlato di No More Tears, perché è vero, l'obiettivo della nuova Ferrari SF1000 è quello di asciugare le lacrime di milioni di ferraristi. Tenete presente che quando vincemmo l'ultimo titolo mondiale piloti nel 2007, alla Casa Bianca c'era Bush, il Papa era Benedetto XVI, la Juventus era appena risalita dalla Serie B e Carletto Leclerc andava all'asilo. Allora, basta, non se ne può più. Avete voluta, con questa l'avete macchina voluta. Partiamo da Reggio Emilia e speriamo di dare la soddisfazione che merita Marino Bartoletti, che è stato esemplare a scendere le scale di Sanremo, perché quando si è truccato da Mara Venier era così perfetto che voi non l'avete riconosciuto. Dai, parliamo un po' di festival, Marino. L'avete voluta. Parliamo adesso di festival. Io canterò Se piangi, se ridi, vincitore nel 1965, con l'intonazione di Barry Maguire, che si nascondeva fra i minstrel prima di cantare Eve of Destruction, ricorderete, e faceva: se piangi, amore, io piango con te perché tu sei parte di me. E lì veniva Turrini. Beh, mi tra l'altro, scusa, tutto Marino, straordinario. No, ma diciamo anche che Se piangi, se ridi è la canzone preferita in questo momento di Maurizio Sarri. Avete letto che è andato a questa cena fredda con Umberto Agnelli? Hai no, Andrea Agnelli, no, ma mi dicono che fosse prevista da tempo, poi non si trovava spazio nelle rispettive agende. Non erano d'accordo sul menù, pare che ci sia questo dissidio, hai capito? In casa Juve il menù non soddisfaceva entrambi i palati, ma queste sono cose che capitano. Ricordo io e Marino una sera eravamo andati a cena con Johnny Dorelli e Marino continuava a dire a Johnny Dorelli: Johnny, ma dammi il numero di Catering Spa, no? E Dorelli diceva: ma no, che adesso sto con Gloria Guida. Insomma, venne fuori un pandemonio, abbiamo fatto una bella figura, Marino, adesso possiamo dirlo, e tu ci potresti far sentire l'immensità, questo. Facci sentire l'immensità dedicata all'Inter del secondo tempo nel derby. Vai, dedicata all'Inter del secondo tempo nel derby. Vai. E d'altra parte cantò l'immensità nel 67 in coppia con Dombacchi, non dimentichiamolo mai. Come faceva? Io sono sicuro che per ogni goccia ve l'abbono, dai, ve l'abbono. Senti, ma perché mi scrivono a proposito di derby? C'è un ascoltatore che si chiama Riccardo che mi scrive: il buon Marino ha cannato il derby. In che senso? No, non lo so, avevi fatto qualche pronostico in giro? No, può darsi, perché ho parlato e straparlato di tutto a Sanremo. A qualcuno devo aver detto che prevedevo un pareggio, e fino a un certo punto l'avevo anche indovinato, devo dire. Anch'io prevedevo un pareggio, ma insomma, vabbè, i pronostici si fanno ovviamente per essere sbagliati. Va bene, questa, parliamo un attimo di Sanremo musicalmente, Marino. Com'è andata? Perché mi sembra ci sia stato molto, molto fuori concorso, no? Cioè, proprio era, a un certo punto era metà festival e metà Amarcord, te che te. Fiorello parlerebbe di successismo, devo esatto, dire. Successismo totale. Tra l'altro, ho incontrato Amadeus l'altro giorno all'intervallo di Inter Milan, con cappotto nerazzurro, cappotto azzurro, pantaloni neri, insomma, veramente. E, ma questo chi se ne frega, dici che è stato un buon festival, cioè, dai, Pierre, è stato un buon festival perché è stato un festival opulento nel quale tutti abbiamo trovato qualcosa, 2, 3, 4, 5 cose in cui riconoscerci. Buonissima, veramente buona, dai, buona la qualità media delle canzoni, accettabilissimo il podio, il cuore lasciato in almeno altre 3 o 4 canzoni fate voi che non sono arrivate sul podio, belli gli Amarcord, sì, forse di qualche balletta, chiamiamola così, si poteva anche fare a meno. Però insomma, quando ho quei bonus dormi tato merus, come avrebbe detto Biscardi al suo tempo. Gli ascolti contano e non contano, ma viva Dio ci sono stati anche quelli, seppure anche in qualche modo carpiti grazie alle notti fonde che ci hanno fatto fare. Sì, ma devo dire che da appassionato di dati Auditel che è vero che sicuramente il fatto di essere andati fino a tardi ha aumentato ulteriormente lo share, ma i dati erano già buonissimi pure se fosse finito mezz'ora prima, quindi da questo punto di vista è stato veramente un trionfo assoluto e secondo me è una sorta di eventizzazione, un'onda lunga di Sanremo negli ultimi anni. Poi ovviamente Amadeus e Fiorello sono stati bravissimi, questo è oggettivo, però è una tendenza, è un'onda lunga che dura da parecchi anni perché Sanremo ha ripreso una centralità che onestamente un po' di anni fa non aveva. Poi c'è Twitter che ha reso Sanremo quello che è. C'è anche qualche ascoltatore che, povero di spirito, ma io pensavo di sentire una trasmissione sportiva. Ragazzi, questo è sport. Stiamo parlando di sport. Mamma mia, che noioso Sanremo. Che noiosi che siete certe volte. Allora, dopo. E poi c'era Ronaldo a Sanremo, quindi accontentiamo anche lui. Sì, ma che palle. Dopo il traffico, Leo Turini mi dirà di quale valletta Marino Bartoletti avrebbe fatto a meno. Ah, così. Sì. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter. O cercate la nostra pagina, Tutti Convocati Radio 24, su Facebook. Tutti Convocati. Tutti Convocati. Ciao Genta e Turrini, avete visto ieri sera Bartoletti sulle note dei Ricchi e Poveri? Mamma mia, sembrava un bambino. Che spettacolo, come ballava. Allora, c'è chi scrive: Sabrina Salerno, ragazzi, che roba, 30 anni di diotrie perse. Questo è un ascoltatore simpatico, sì. Molto simpatico. Allora, Leo, di quale valletta avrebbe fatto a meno Marino Bartoletti? Ma sai, è una domanda alla quale deve rispondere diretto interessato. Voglio però dirvi, siccome il bravissimo e modernissimo Bardo ha citato Twitter, mi è arrivato un tweet dal paradiso di Enzo Ferrari, il cui testo dice: se mia nipote si mette a cantare al Festival di Sanremo la diseredo. Questo va detto perché avete osato iniziare la trasmissione con la Lamborghini elettrica e poi vi stupite se Bartoletti ballava avendo rivisto la sua ex fidanzata Marina Occhiena dopo circa 50 anni a Sanremo. Ma è chiaro, certe cose nel cuore rimangono, voglio dire, no? Io ho ammirato moltissimo Marino che si lanciava in una sorta di lambada, hai capito? Veramente bravissimo, bravissimo. Sì, io sto... bravissimo, bravissimo Turrini, devo dire che la vicinanza della presentazione della Ferrari per lui è come un Viagra radiofonico, non l'ho mai sentito così in forza. Sì, è una forma incredibile, No, perché la Ferrari, la presentazione della Ferrari è come lo scudetto di agosto, no? Tutti i sogni valgono. Per far arrabbiare i tuoi correligionari, tutti vincono e di solito lo vince l'Inter. Noi abbiamo in comune questa cosa, in effetti, interisti, ferraristi, fin quando non si fa sul serio siamo irresistibili. Però io vi dico che questa SF1000 potrebbe davvero scaldarci i cuori. Avete notato che la Mercedes per somigliarci un po', ha messo qualcosa di rosso sulla sua livrea, quindi in realtà ci temono, capiscono che noi, reduci da questo Sanremo, eccetera, ci siamo caricati a Schioppettone, poi Romero Lukaku, Achille Lauro, tutti, voglio dire, Hamilton, però come Ibra, Ibra ha detto l'Inter non è da scudetto, Hamilton ha già detto stamattina la Ferrari non è da mondiale, e quindi è una gara dura sia per Conte che per Mattia Binotto, che tra parentesi è un grandissimo interista e vi saluta con moltissimo affetto, e si domanda come mai Pardo non fosse a Sanremo. Se Pardo volesse rispondere, ma io sono sicuro felici, che prima o poi presenterà Sanremo, no, questo lo dico da anni. No, io voglio andare, vorrei andare tanto in sala stampa, perché secondo me lì si divertono tantissimo. Biasini mi fa dei racconti straordinari, quindi è un posto ancora più bello, Pier, che è la Green Room, un posto ancora più bello che è la Green Room, che è praticamente lo spogliatoio dove, dove... No, le vallette affido che non sei altro. Sì. Ma pensa che Manigoldo. Allora, io ti devo dire questo: c'è un ascoltatore che manda questo WhatsApp che ora leggerò, e che ha la foto nella foto dell'icona ha ritratto se stesso, io non lo conosco, e Marino Bartoletti. Beh, questo nell'icona ha questo selfie con lui e Marino Bartoletti e scrive: la Salerno la migliore è se stessa, che ho visto dal vivo 34 anni fa. Tra 34 anni voglio vedere quelle giovincelle di ora. Quindi, ha ragione. Eh beh, per forza, tu gli dai ragione, perché ha la nell'icona di WhatsApp ha la foto col selfie suo. Vabbè, comunque gli si può dare ragione a prescindere. Qualcuno di voi miopi può smentire questa affermazione? No, direi assolutamente di no. Direi che io ho fatto un'operazione agli occhi, tutti lo sanno. esatto. Leo, hai un messaggio... Anche noi della Ferrari, se potessimo schierare la rossa di Niki Lauda, ci sentiremmo più tranquilli, ma purtroppo i regolamenti tecnici non lo consentono, e Niki è in paradiso con il vecchio, con Gilles Villeneuve, e ci accontentiamo di Carletto e di Seb Vettel. Io non vorrei però che queste prestazioni super di Carletto ci spingessero a cambiare il nome di Vettel da Seb a Sob. Infatti, ma chi è la prima guida? Chi è la prima guida? È come chiedere a Dazon chi è il leader, è Pardo e Diletta Leotta. Tutta l'Italia si tormenta con questo interrogativo, hai capito? E anche noi qui in Ferrari è Sob Vettel o Carletto la prima guida, non so dire. Chi è? Tanto alla fine vi per me Carletto. Carletto, amico mio, Carletto. Beh, quello che si augurano un po' tutti. Io mi auguro che il vecchio abbia scoperto la contemporaneità e mandi un tweet intimidatorio a chi è al suo posto in questo momento. Ci vuole una prima guida, ragazzi. Ci vuole Sono d'accordo, maestro, ma ci vuole. Allora, se vuoi vincere il mondiale, ci vuole la prima guida. Ci vogliono le gerarchie, ci vuole chi fa il gioco per l'altro, e quindi questo è, perché anche questo la storia insegna, mi pare. Beh, anche no. Perché aggiungere una cosa, la però. Mercedes c'è la prima guida. Certo, è la seconda. Va bene. La prima guida, la gerarchia e tutto, ma ci vuole la macchina, perché noi possiamo anche stabilire che Carletto, che era all'asilo quando la Ferrari ha vinto l'ultimo mondiale, è la prima guida della galassia dell'interspazio. C'era una volta in una galassia lontana, tanto tempo fa, ma se poi presentiamo una macchina come quella dell'anno scorso, che va forte solo sul dritto in autostrada, tranne che sulla Piero Cormano, dove siamo sempre in coda, perché oggi ci mancava solo Morgan a tamponare Bugo, hai capito? E Achille Lauro che vuole diventare la Dori Ghezzi di Lukaku, e siamo qui fermi e non si muove foglia. E io, cosa volete che vi dica? Bisogna fare di questa Ferrari una vettura che sia competitiva su ogni tipo di circuito. Punto. Tanto oggi è il giorno dei sogni, è il Ferragosto della Formula 1. Perché SF1000 le hanno messo il nome di un treno? Esatto. E tu sei sempre, caro Marino, per me un affettuosissimo punto di riferimento. Perché in estate la Ferrari parteciperà per la millesima volta a un Gran Premio di Formula 1. Non è ancora sicuro, purtroppo, e qui sono serio, quale sarà la gara in questione, perché se dovesse saltare il Gran Premio in Cina, come è possibile per le note vicende del coronavirus, allora slitterebbe anche questo record leggendario dei 1000 Gran Premi. Ho capito. Ma mi fai il tuo podio al volo in 5 secondi, Marino, di Sanremo, delle tre canzoni? Due? Beh, io mi riconosco molto nel podio che c'è stato. Forse avrei messo Gabbani al posto di Diodato, ma grandissimo rispetto per il talento di Diodato. Poi certo il cuore è rimasto a Pelù, è rimasta la vibrazione, è rimasta Iannacci, è rimasto Achille. Grandi. Guarda, persino Arancore, guarda. Achille straordinario. Achille straordinario. Guarda, io ho passato un paio d'ore di attesa prima di entrare sul palco dell'Ariston, che è sacro, a Domenica Inn, con la Lamborghini prima, penso un po', che poi su quel palco non è mai salita. E poi con Achille Lauro, che è un ragazzo di grande sensibilità, di grande intelligenza e anche di grande fantasia, che grazie alla musica si è emancipato da problemi anche seri che ha avuto. Io sono stato molto contento di vederlo ricevere tanti consensi su quel palco. Dopo questo outing da cui ripartiremo martedì prossimo, saluto tutti, compreso Leo Turini, Mario Bartoletti, Claudia Schiattone, Gianmarco Ferronato. Saluti a tutti, saluti. Buona giornata. Adesso Matteo Caccia. È stato una montagna russa. Ci vediamo domani. Enjoy. Saluti.